5, 4, 3, 2, 1. Conto alla rovescia. Buon pomeriggio da Gigi Donelli e bentornati all'appuntamento con Conto alla rovescia. Oggi partiamo dalla Stazione Spaziale Internazionale e infatti Frank De Vin, astronauta belga di 48 anni, il primo comandante europeo della stazione. I 20 che l'hanno preceduto sono stati sempre solo russi ed americani. Nel 1998 il neocomandante è entrato a far parte della pattuglia astronautica dell'Agenzia Spaziale Europea e nel 2002 ha compiuto la sua prima missione a bordo di una Soyuz. Della Stazione Spaziale Internazionale hanno parlato a Washington Enrico Saggese, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e Charles Bolden, il neo amministratore della NASA. Sul tavolo la gestione della stazione e soprattutto il ruolo degli astronauti italiani nel quinquennio 2015-2020. NIR 2 to OPR. Yes, confirmed. 10. November. La Luna è stata dunque centrata. La NASA ora attende l'esito della missione. Si tratta di LC ROS, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, una missione seguita da milioni di persone nel mondo. Il razzo Centauro, come previsto, ha sollevato una colonna di detriti dal suolo lunare. 4 minuti più tardi, la sonda l'ha attraversata analizzandola. Perché è così importante sapere se c'è acqua sulla Luna? Lo abbiamo chiesto a Piero Benvenuti, astrofisico all'Università di Padova e dell'Agenzia Spaziale Italiana. È importante dal punto di vista scientifico per capire se nei crateri vicini al polo, dove la luce del sole non arriva mai nel fondo del cratere, si possa essere accumulata dell'acqua portata da altri corpi, in particolare da comete che si sono cadute nei crateri stessi. Però bisogna subito dire che questo non ha nessun impatto su un possibile utilizzo di quest'acqua per altri scopi, per esempio per una base, un'eventuale base umana sulla Luna. La Luna non è sicuramente il corpo celeste dove l'acqua si può accumulare in grandi quantità. È interessante capire se le comete ve ne hanno depositata un po' e soprattutto paragonare la quantità d'acqua depositata da corpi esterni con quella che invece ha origini comuni all'origine della Luna stessa. Satelliti contro la desertificazione. COP9, la conferenza delle Nazioni Unite, ha individuato gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di questo fenomeno. La copertura vegetale della superficie terrestre è ovviamente uno degli indicatori più importanti e può essere tenuta d'occhio dallo spazio attraverso proprio i satelliti. L'impegno italiano in questo campo è sostenuto dal programma dell'ASI Cosmo SkyMed, un sistema di osservazione satellitare tutto italiano, impiegato sia per usi militari che civili. Questa settimana allora cerchiamo di capirne di più andando alla base di terra di Cosmo SkyMed che si trova a Matera. Giuseppe Bianco è il responsabile della base ASI di geodesia spaziale di Matera. Il centro di Matera è un centro dedicato principalmente all'osservazione della Terra con tecniche spaziali. Questa attività a sua volta si divide in due grandi tronconi, quello che chiamiamo geodesia spaziale ed il telerilevamento. La geodesia spaziale è una scienza che si occupa della misurazione della forma, delle dimensioni della Terra e dello studio della rotazione terrestre e del campo gravitazionale terrestre. Questo si fa con tecnologie molto avanzate. Queste tecnologie sono installate presso il centro di Matera, che è quindi una delle pochissime, ce ne sono solo due in Europa, stazioni fondamentali della rete geodetica mondiale. Oltre a questo ci occupiamo di telerilevamento, che essenzialmente è una serie di attività legate all'acquisizione di immagini della superficie terrestre da sensori posti su satelliti artificiali e l'elaborazione di queste immagini che poi vanno distribuite all'utenza, che può essere scientifica o commerciale. Ecco, osservazione della Terra oggi in Italia vuol dire anche molto, non solo, ma molto Cosmo SkyMed, che è il più evoluto sistema satellitare italiano. Voi ne ricevete i dati? Sì, si tratta di una costellazione di 4 satelliti radar ad apertura sintetica ad alta risoluzione. Il centro di Matera cura l'acquisizione delle immagini dai 3 satelliti tuttora in orbita, il quarto verrà lanciato nel 2010, l'acquisizione delle immagini, l'elaborazione dell'immagine e la distribuzione all'utenza di immagini realizzate con questo sistema. Bene, con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento settimanale. Vi lascio e vi ricordo solamente che a Cape Canaveral è tutto pronto per la prossima missione dello shuttle. L'Atlantis sarà lanciato per la 31ª volta nello spazio per completare la costruzione proprio della stazione spaziale. Lancio previsto per il 12 novembre dalla rampa 39A. Poche centinaia di metri di distanza continuano intanto i preparativi per Ares 1, il razzo delle future missioni americane. Semaforo verde previsto per il prossimo 27 ottobre. Con questo è tutto, vi ricordo naturalmente www.radio24.it per sentire questo e tutti gli altri programmi di Radio 24. 3, 2, 1. We have ignition.